Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Il libro, in quanto libro, appartiene all'autore. Ma il libro, come pensiero, appartiene a tutto il genere umano. Tutte le intelligenze ne hanno diritto. Questo era Victor Hugo, era il discorso d'apertura del Congresso di Letteratura Internazionale nel 1878. Io sono Luca Tremolada. Luca Dello Iacovo. E ora le news. Pechino chiude un sito gestito da tre hacker. I pirati informatici cinesi addestravano altre persone a violare i sistemi di sicurezza e fornivano software illegali. L'Accademia clandestina di hacker ha concluso le attività a novembre, ma la notizia è stata resa nota ieri. All'inizio di gennaio, gli Stati Uniti hanno accusato la Cina, in seguito agli attacchi informatici subiti da decine di aziende in California. La birra contribuisce a rinforzare le ossa. Secondo i ricercatori dell'Università di Davis, è ricca di silicio, nella forma solubile di acido ortosilicico. Un consumo moderato può aiutare lo sviluppo delle ossa e la crescita di tessuti connettivi. Durante lo studio scientifico, sono state analizzate 100 differenti birre in commercio. Un traduttore per lingue straniere installato nei cellulari. È l'ultima scommessa di Google per i suoi smartphone. Il motore di ricerca sta sperimentando l'unione tra i servizi di traduzione dei testi e le tecnologie per il riconoscimento vocale. L'interprete automatico di Google non sarà simultaneo, ma analizzerà in blocco lunghi frammenti di conversazioni. Allora, quello che vi ho letto all'inizio, con un po' in apnea, insomma, con la voce un po' rotta, emozionata, era il preambolo al public domain, al manifesto sul pubblico dominio. E non c'è nulla di più rivoluzionario, lo possiamo dire, di questi tempi, di parlare di pubblico dominio. Perché è una cosa che in effetti è in continuità con quello che sta accadendo su internet, e cioè su internet accade che ci sono dei testi che vengono condivisi dalle persone. Se volete scrivere una poesia la potete pubblicare su un blog, ci sono delle immagini che voi potete pubblicare su internet, ci sono dei video, anche la musica potete decidere di pubblicarla su internet se è vostra, ovviamente. Ecco, questo è perché è rivoluzionario, perché è ribelle. Si dice che l'innovazione nasce da un atto di ribellione. È rivoluzionario semplicemente perché, insomma, va contro a un pensiero tradizionale che vede un certo tipo di proprietà che va assolutamente tutelata, che va assolutamente protetta, ma che accanto a questo tipo di proprietà vediamo il diffondersi di una nuova concezione della condivisione dei contenuti, della cultura e del pensiero. Anche se, appunto, sono un pochino più attento, ecco, a guardare il fatto che diciamo la condivisione di informazioni su internet è una cosa che c'era prima e adesso c'è un modo per farlo condiviso, cioè il fatto di avere delle licenze Creative Commons, vedremo dopo cosa significa. Significa avere un modo condiviso e trasparente, sì, di diciamo pubblicare le informazioni e di fare in modo che la conoscenza circoli sul web. Insomma, da Lawrence Lessig a Joy Ito sono molti personaggi che sono anche andati a raccontare a chi ci governa che cosa sono i Creative Commons, sì, a cercare di spiegare che cosa sta succedendo su internet. Non sembra che ci siano riusciti, bisogna dire, però insomma il tentativo di spiegare che ci sono delle idee che forse è giusto che restino pubbliche ed è giusto che siano condivise ed è giusto che si arricchiscano grazie al contributo delle altre persone è importante. Però ricordiamo anche che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha deciso che tutti le cose pubblicate sul sito della Casa Bianca sono in Creative Commons, cioè sono liberamente copiabili sul proprio blog. Questa parola deve entrare a far parte un po', insomma, del nostro vocabolario, ma soprattutto deve diventare un'opzione per un autore, per un produttore di contenuti, per chi vuol diventare un regista del futuro, che vuol diventare uno scrittore, per chi vuol diventare un qualche cosa che produce contenuti e che magari non è ancora abbastanza importante per avere alle spalle una casa editrice, non è ancora abbastanza importante per avere un finanziamento e vuole cominciare a condividere parte di quello che sta facendo. Ma ce la stiamo cantando un po' troppo, sì, no? Diciamo che anche c'è la possibilità di fare un dono con i Creative Commons, però... però non lo so, perché non ce l'avevamo preparata, però mandiamo in onda magari la scheda che spiega bene che cos'è PLOS. Sì. La biblioteca di PLOS è accessibile soltanto attraverso internet. I suoi scaffali raccolgono studi scientifici di medicina, biologia e genetica. Ogni testo è disponibile gratuitamente. Nel mondo, 26.000 ricercatori hanno pubblicato i risultati della loro attività su PLOS. E ogni giorno 5 milioni di persone leggono le pagine della biblioteca online. I finanziamenti per l'archivio scientifico gratuito arrivano attraverso i pagamenti degli autori per la revisione degli studi. Ma altri editori hanno deciso di pubblicare le ricerche scientifiche su internet senza costi per i lettori. I diritti d'autore delle opere sono gestiti attraverso licenze flessibili, chiamate Creative Commons. Rappresentano un punto di incontro tra scienza e arte per facilitare la circolazione di conoscenza. Si tratta di strumenti legali utilizzati per condividere testi, video, immagini e suoni. La sostenibilità economica dei progetti è affidata a differenti fonti di ricavi, come donazioni, pubblicità, accordi di revenue sharing, sottoscrizioni. Allora, 824 0024, se ci volete scrivere quello che state condividendo, che volete condividere in rete, 349 238 6666 l'SMS, quello di prima invece è la telefonata in diretta. Perché abbiamo parlato di PLOS? Perché sta succedendo una cosa molto interessante con PLOS. I ricercatori che si occupano di malattie rare oppure di malattie molto diffuse ma su cui c'è poco interesse economico a investire possono pubblicare su PLOS i loro articoli e questi articoli possono essere letti in tutto il mondo. Qual è il motivo? Semplicemente perché una malattia rara, lo dice la parola stessa, è rara. In quanto tale magari una farmaceutica non ha intenzione di investire. Perché il ritorno in termini di vendita di farmaci, eccetera, eccetera, è superiore rispetto a quello, anzi è inferiore rispetto ai costi della ricerca. E di conseguenza anche le ricerche sono rare per le malattie rare. Allora, spazi come PLOS permettono di accumulare ricerche, accumulare conoscenza e quindi gli scienziati che in diverse parti del mondo si occupano di una malattia di cui magari soffrono poche decine di persone, possono in questo modo però scambiarsi molto facilmente le conoscenze. Ecco, noi chi abbiamo in collegamento? Abbiamo Juan Carlos De Martin, professore del Politecnico di Torino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto mi deve spiegare, prima di raccontare che cosa sta facendo il suo ruolo all'interno di Creative Commons, come mai facciamo così fatica a parlare di Creative Commons in Italia? Ma perché Creative Commons comunque si appoggia sul diritto d'autore, il diritto d'autore è oggettivamente una parte della legge complessa che si è stratificata nel corso di secoli e quindi purtroppo dobbiamo far fronte a questa piccola complessità iniziale. È una complessità maggiore o io sto un po' pungolando, perché insomma il tema di internet e il tema dei contenuti mai come in questi ultimi due mesi è stato oggetto di un'attività governativa, di un'attività legislativa, in qualche modo di un'attenzione particolare da parte del legislatore. Sì, ormai gli anni cominciano a essere tanti, perché Creative Commons è nato alla fine del 2002, quindi ormai sono quasi 8 anni che parliamo di Creative Commons e devo dire che ormai gli esempi dall'Australia agli Stati Uniti, ma anche in Europa, cominciano a essere un discreto numero, e in Italia che si fa un po' fatica a fare il salto di qualità, soprattutto a livello di governo. Ecco, e per i Creative Commons diciamo c'è la possibilità di un modello di business, nel senso che il fatto di avere contenuti gratuiti su internet è un dono, ma può anche avere però delle prospettive economiche? Sì, perché in realtà Creative Commons è uno strumento che può essere usato per cose molto diverse tra di loro. Può essere usato per mettere a disposizione materiale prodotto da un ministero, nel qual caso il modello di business non c'è per definizione, ma può anche essere utilizzato, come accennavate anche voi all'inizio, per rilasciare per esempio un CD in negozio o online da parte di un artista emergente o no, che però segnali per esempio che gli sta bene dare una copia ai propri amici, ai propri conoscenti, cosa che altrimenti sarebbe vietata. Quindi il modello di business ci può essere perfettamente, anche con le licenze Creative Commons. Ecco, noi io direi di fare una cosa. Innanzitutto, prima di entrare nel merito di quello che è Comunia, che è un po' anzi, non lo diciamo che cos'è Comunia, lo spieghiamo subito dopo. Se mi puoi rispondere in brevissimi secondi a un passaggio, che è un po' quello che ci stiamo dicendo. Cioè, com'è possibile che poi di fatto in Italia questi strumenti siano così poco utilizzati, pur essendoci una grandissima esigenza di comunicazione, una grandissima esigenza? Cioè, si utilizza quasi di più il reality show o la televisione per cercare di sfondare come contenuti, come cantanti e così, invece al posto di internet. Ma allora, è utilizzato moltissimo da blog, artisti emergenti, festival. Devo dire che non riusciamo a mappare tutte le iniziative che sorgono spontanee in Italia, quindi non direi che non è tanto utilizzato, forse non è molto visibile a livello dei media, però è utilizzato. Infatti, io su questo tema del fatto che non è visibile sui media vorrei tornare subito dopo. Adesso diamo la linea al traffico e poi magari riprendiamo proprio da qui, da questi due mondi paralleli. Nova Lab 24. Allora, Luca Tremolada, 16:46, Luca Dello Iacovo in collegamento con Juan Carlos De Martina. Insomma, io ho parlato di due mondi paralleli, perché sembra che ci sia un mondo televisivo dove viene raccontato un certo tipo di realtà, e poi il mondo di internet dove, come lei ci ha detto, blogger, ma non solo blogger, utenti, insomma non spettatori ma utenti, insomma, provano a produrre contenuti con modalità e diritti diversi. E tra l'altro poi il mondo televisivo è molto ristretto, mentre quello di internet è accessibile a tutti, però ha molta meno visibilità, come dicevi tu prima, Luca. Poi ristretto, insomma. De Martin. Sì, sono due mondi che vanno avanti in parallelo. È anche sospetto ci sia anche proprio una differenza demografica antropologica tra i due mondi, nel senso che anche le statistiche dimostrano che i giovani sono sempre più sul secondo, cioè su internet, rispetto al primo. Direi che da un certo punto di vista però è abbastanza naturale che si parli poco di uno strumento giuridico come Creative Commons sui mass media, perché quello che interessa in realtà è la sostanza, il che cosa, l'opera prodotta. Quindi dal mio punto di vista forse più che parlare di Creative Commons in sé mi aspetterei che si parlasse di più di condivisione, che ci si interrogasse più collettivamente sul senso o meno determinate regole che bloccano la condivisione della cultura in un momento in cui internet la rende così facile e così pervasiva. Ecco, noi abbiamo in collegamento Marco da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buon pomeriggio. A voi. E niente, io volevo raccontare la mia esperienza. Dunque, io ho scritto un libro su una materia che era la mia passione, che è l'ingegneria del suono. Noi abbiamo fatto anche delle puntate sull'ingegneria del suono. Ah, veramente? Quanto tempo fa? Poi ti do il podcast, dai. Poi me lo cerco sul sito. E niente, io ho scritto questo libro e poi ho cominciato la trafila classica, ho cercato editori in lungo e in largo per l'Italia e sono stato un anno e mezzo circa praticamente a perdere tempo e alla fine un po' sconfortato, niente, c'avevo questo testo in un cassetto e ho deciso di pubblicarlo su un sito. Ho creato un blog, il blog dell'ingegneria del suono, e l'ho messo sotto licenza Creative Commons e poi ho messo il testo in maniera integrale e poi alcuni contenuti multimediali li ho messi in versione limitata. Diciamo, come valuti questa tua esperienza? La valuto bene, perché poi da lì la cosa è esplosa e poi un editore che ha trovato me, cioè ha visto il sito e mi ha detto il testo è buono, facciamone un libro. E quindi io ho potuto vendere la versione integrale a chi la richiedeva, però per chi non voleva comprarla c'era la versione in Creative Commons. Ma sei stato invitato in televisione? No. No. Non ancora. Tutto su internet. Tra l'altro una cosa carina che volevo citare è che un ragazzo indonesiano l'ha visto, io poi ho fatto una versione in inglese anche, sempre Creative Commons, e poi una in francese, e un ragazzo indonesiano sta traducendo il testo in indonesiano. Ci dai il sito? Beh, volentieri. Il sito è audiosonica.com. e ci sono, vabbè, le tre lingue principali sono italiano, inglese e francese, l'ho fatto io. E poi c'è, ecco, la versione indonesiana, e poi adesso c'è un altro ragazzo spagnolo che ha detto che vorrebbe tradurlo. Marco, credo che insomma tu abbia rappresentato esattamente quello che noi diciamo un po' a parole raccontandocela su. C'è qui dello Jacopo che è contentissimo, adesso poi ti scriverà. Complimenti. Grazie Marco. Grazie. Torniamo in studio e mandiamo la scheda su Juan Carlos De Martin, che doveva mandarla prima, la mandiamo adesso. Comunia è una rete di istituzioni europee con l'obiettivo di accrescere il patrimonio di conoscenze in pubblico dominio. A fondare il network è stato il centro NEGSA, guidato da Juan Carlos De Martin, docente di ingegneria al Politecnico di Torino. All'inizio del 2010, Comunia ha lanciato un sito per segnalare gli autori e le opere che ogni anno diventano patrimonio condiviso dell'umanità. Da poco De Martin ha proposto un manifesto del pubblico dominio per cercare un tavolo di discussione comune su una frontiera complessa e in continua evoluzione, come il diritto d'autore. Allora, torniamo a noi, torniamo a noi, in realtà è sempre lo stesso argomento, però vogliamo di capire come sta andando Comunia e di che cosa ha bisogno. Sì, Comunia cerca di esplorare che cos'è il pubblico dominio nella nostra società, in realtà di riscoprire che cos'è, perché il pubblico dominio c'è da sempre, però dobbiamo ricordarci a noi quello che i nostri nonni e bisnonni sapevano meglio di quanto non sappia questa generazione corrente. Quindi che cos'è il pubblico dominio? Perché è importante? Perché ha un ruolo culturale, civile, ma anche economico nella nostra società. E qual è, allora, l'obiettivo poi del manifesto? Abbiamo provato a esplorare questo. Chiedeva dello Jacopo, qual è l'obiettivo del manifesto? L'obiettivo del manifesto è ricordare a tutti, ma in particolare ai policy makers, che il pubblico dominio esiste, che ci sono degli ottimi motivi perché esista, anzi che i motivi nel XXI secolo sono ancora più rilevanti di quanto non fossero in passato, e ricordare in realtà, e qua c'è il collegamento con Creative Commons, che non c'è solo il pubblico dominio in senso tradizionale, le opere di Manzoni, le opere di Shakespeare e così via, ma c'è anche un pubblico dominio costruito su base volontaria proprio con strumenti come le licenze Creative Commons. Quindi invitiamo i policy makers a tenere d'occhio il pubblico dominio in senso stretto, che si è andato riducendo sempre di più nel tempo, perché si è esteso sempre di più il diritto d'autore, e il pubblico dominio di nuova natura, su base volontaria, su base individuale, che sta arricchendo moltissimo il pubblico dominio. E che quindi riguarda, se capiamo bene, l'altruismo e anche il dono che le persone vogliono fare di contenuti, di video, di immagini, di testi, di musica? Sì, perché come dice Victor Hugo, il fatto di pubblicare un'opera, lo dice la parola, pubblico un'opera, vuol dire che la metto a disposizione, è un atto di... è intrinsecamente anche un atto di donazione, di comunicazione, altrimenti la terra è nel cassetto. E quindi la radice è presente, e internet rende semplicemente più facile, più efficace, più capillare, più globale raggiungere i miei potenziali interlocutori, ascoltatori, ecco, coloro che leggono il mio romanzo. Ecco, lo ricordiamo. Ecco, De Martin, se lei è d'accordo, e soprattutto se anche dello Jacopo è d'accordo, noi diamo l'indirizzo di posta elettronica di novalab24@radio24.it, perché insomma, se ci sono altre persone come Marco da Roma che hanno prodotto un'opera d'ingegno intellettuale, uno scritto, insomma, o un audiovisivo in Creative Commons, di raccontarci quello che è successo, come hanno fatto, se è facile, se è difficile, insomma, di raccogliere un po' di testimonianze, perché forse non c'è nulla di meglio che partire dai fatti concreti, partire dalle storie personali. E lo possono fare anche su Facebook, all'indirizzo www.facebook.com/novalab24. Lo possono fare anche su Twitter, ma non c'è più tempo. Io ringrazio Carlos De Martin e Juan Carlos De Martin, ringrazio Luca Dello Jacopo. Noi ci sentiamo domani alle 16:30. Arrivederci.